Effetto Mondo. Eccoci qua, ciao Giulia. Buongiorno. Buongiorno Giulia Crivelli. Allora, la prima cosa che ci volevi segnalare non è una bella notizia, ma sì, insomma, però insomma è la scomparsa di Max von Sydow, che però aveva 91 anni, quindi ha avuto una vita credo veramente molto piena, e lui stesso l'ha detto più volte: ho avuto molte più soddisfazioni di quelle che avrei creduto. Nato in Svezia, anche se poi è diventato veramente una star internazionale, e quindi molti quotidiani svedesi, ho stampato in particolare il Dagens Nyheter, hanno proprio la metà della pagina con un suo bellissimo ritratto già in età avanzata. Anche questa trovo una cosa molto bella, perché a volte quando scompare un grande sì, attore ti mettono la foto di 20 anni prima, e quindi ho trovato l'audio, naturalmente c'è anche in italiano, ma l'ho preso in inglese per farvi capire come parlasse bene l'inglese. È dal film del 1986 di Woody Allen, Anna e le sue sorelle, ed è la scena in cui poi lascia la sua fidanzata più giovane, ma qui dice delle cose che poi vi traduco, che insomma a me sono sempre rimaste molto impresse di quel film, probabilmente anche per come le ha dette lui. The reason why they can never answer the question, how could it possibly happen, is that it's the wrong question. Given what people are, the question is, why doesn't it happen more often? Of course it does. Qui la ragazza ritorna in realtà da un incontro, da sì, un tradimento, e lui stava guardando la televisione e dice: ho sentito l'ennesimo dibattito sull'olocausto e tutti che chiedevano ma come è potuto succedere, e io pensavo tra me: non avrete mai una risposta perché fate la domanda sbagliata. La domanda giusta sarebbe: come mai non succede più spesso? Perché gli uomini sono fatti così. E quindi non lo so, mi è venuto anche in mente che forse davvero questa è l'occasione, questa del coronavirus, per dimostrare che possiamo essere migliori, che possiamo tutti uno per uno e quindi tutti insieme avere insomma, un atteggiamento più responsabile, più consapevole, più di solidarietà verso gli altri. Insomma, forse non aveva ragione, ecco, forse si riesce a essere diversi. Insomma, è un auspicio, quantomeno è utile averlo in queste ore, perché non serve a niente invece autocommiserarsi. Purtroppo però vi devo dare un'altra notizia che non è lieta, perché Ryanair, uscita proprio adesso, cancella tutti i voli da e per l'Italia fino al 9 di aprile. Sì, continuano ad arrivare queste notizie, quindi proprio perché ci chiamiamo Effetto Mondo è inutile far finta che non stia succedendo, e quindi tutti i giornali di tutto il mondo oggi parlano di questo. I giornali americani hanno forse l'unica altra grande notizia, che è quella che oggi è il Super Mini Tuesday, perché oggi si vota in 6 stati: Idaho, Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota e Washington State. Ci sono aspettative per dei risultati che potrebbero in qualche modo cambiare soprattutto in Michigan, che è lo stato, sì, la capitale naturalmente è Chicago, quindi è lo stato proprio dell'auto, dell'industria dell'auto, dove certo, le persone della classe media, operai bianchi, si dice, secondo l'analisi dei flussi elettorali, hanno dato la vittoria a Trump nel 2016. Vediamo se questa volta, se non altro, voteranno più convintamente, con più entusiasmo, per uno dei due candidati del Partito Democratico. Sanders ci conta molto. Sia il New York Times che USA Today che Washington Post spiegano anche che, naturalmente gli hanno chiesto: ma visto che farete riunioni prima, convention, queste riunioni, questi rally al momento della proclamazione dei risultati, coronavirus ci avete pensato? E lui ha risposto che hanno preso tutte le precauzioni necessarie, lui e il suo staff, che naturalmente tra l'altro ieri è uscita anche la notizia che forse anche un metro, per i più pessimisti, non potrebbe essere una distanza che il virus riesce a coprire. Quindi non lo so, voi l'avete viste questi rally, altro che un metro tra una persona e l'altra. Quindi insomma, un po' di preoccupazione c'è molta preoccupazione anche perché oggi, in teoria, riunione straordinaria alla Casa Bianca, conferenza stampa nel primo pomeriggio americano, quindi la sera qui da noi, in cui Trump dovrebbe annunciare delle misure. Però in realtà sentiremo Ben Carson, che è personaggio incredibile, è stato il primo neurochirurgo afroamericano, pioniere in particolare nella neurochirurgia pediatrica, un genio nel suo campo, era democratico, poi è diventato repubblicano, in questo momento è il ministro per lo sviluppo dell'urban development, quindi sostanzialmente lo sviluppo delle periferie, non è ministro della salute, però Trump lo ha coinvolto in questa task force. Ma sentite come ha risposto alla domanda, soprattutto che riguardava la famosa nave da crociera che ha attraccato a Oakland in California. the cruise ship personnel, and as you know, the vice president met with the CEOs of the major cruise ship companies yesterday, and they are coming up with a plan. Ecco, lui dice a questa questo network nazionale, sì, no, ma il piano lo stanno facendo. E poi il giornalista dice, ma come lo stanno facendo? La nave ha attraccato, il piano dovrebbe essere già pronto. E l'impressione è stata un po' quella data anche nei giorni scorsi, cioè che non ci sia in effetti in questo momento la capacità di rispondere. Sono un po' le accuse che abbiamo sentito dire anche qui, solo che parliamo degli Stati Uniti, la prima economia del mondo, tanto che il Financial Times nel suo secondo dorso Companies and Market ha una fotografia di Trump con davanti la mappa di tutti i paesi colpiti. Lui normalmente mostra sempre l'andamento della borsa per dire quanto è popolare. Ieri non l'ha mostrato perché tra l'altro gli analisti cominciano a notare questa incapacità di Trump di gestire la situazione, a parte gli strali contro la Federal Reserve, ma sappiamo che le banche centrali non sono la panacea di gravi crisi come questa, e quindi vedremo oggi se ci sarà qualche novità. Senti Giulia, che cos'altro ci vuoi segnalare? Abbiamo ancora un minuto e mezzo di particolare. Ma, insomma, sulle pagine dei giornali. Una curiosità, Granma, che è il quotidiano di cubano, Cuba, certo. Titola oggi con "Non ci sono casi di Covid-19 in Cuba, però è meglio prevedere". Vi ricordo che sicuramente di Cuba si possono dire tante cose, però Cuba ha uno dei migliori sistemi sanitari nazionali, pubblici naturalmente, università mediche, centri di ricerca di altissimo livello. Sono stati i medici cubani ad andare in Venezuela per l'emergenza, che tra l'altro continua anche se non ne parliamo più, anche sanitaria, e quindi insomma trovo interessante perché sanno che potrebbe arrivare anche lì e si stanno preparando, cosa che non hanno fatto tanti altri paesi che pensiamo essere molto più illuminati di Cuba. Ancora ho visto che mi segnali l'Australia, per esempio, giornali australiani. L'Australia, l'Australian Post ha questa foto molto bella, che c'è un enorme orso, perché sapete che l'orso è il simbolo della borsa che scende, certo, mentre il toro della borsa che cala, quindi che sale. Quindi anche qui grande enfasi sul tema dell'andamento degli indici, però anche l'annuncio anche in Australia di misure straordinarie, in particolare per tutta l'industria del turismo, perché anche lì, come in Italia, è una delle prime emergenze. Va bene, fermiamoci qua anche per oggi. Grazie a te Giulia Crivelli, grazie per essere stata con noi. Ci ritroviamo domani con Effetto Giorno. È tutto per oggi. Andrea Roccabella in regia, Jacopo De Franchi in redazione e Danilo Di Trani in assistenza. Ad Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata. Ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento.